Presidente di una palazzina, diciamo intorno ai 4 piani, 4 piani e mezzo. Ecco, questo è tutto l'oro disponibile. Proprio la rarità dell'oro ha fornito un ancoraggio più o meno stabile. Inizialmente le monete erano d'oro e valevano per il peso dell'oro, cioè 10 libbre, la lira viene da libra, erano 10 libbre d'oro, quindi la parità era rispetto. Oddio, si cercava sempre di barare un po'. Voi vi siete mai chiesti perché le monete, in particolare le monete dei metalli più preziosi, oro, argento, sono dei ritrovamenti archeologici, sono particolarmente consunte, particolarmente consumate. Non è tanto perché l'oro si consuma con lo sfregamento, anzi l'oro è uno dei metalli che subisce meno l'attrito, e che c'era la diffusa abitudine di dargli qualche colpo lino ogni tanto per recuperare un po' di polvere d'oro, in modo che la moneta continuava a valere il suo valore nominale, però noi qualche cosa cercavamo di far vederla. Oppure, per esempio, spesso accadeva, già dall'impero romano, che l'oro valesse 10 libbre la moneta, ma in realtà ne contenesse 8. Oppure in alcuni casi, soprattutto in periodo medievale rinascimentale soprattutto, si usava fondere nella moneta una qualche quantità di metallo meno prezioso, piombo, tanto il peso certo era minore perché il peso specifico del piombo è minore, però non ci si faceva più caso di tanto. Quindi diciamo si è sempre cercato di barare sull'oro. Però ciò nonostante, fino all'Ottocento nel complesso l'oro garantiva un ancoraggio forse un po' irrazionale, ma solido, stabile, con due conseguenze. Le monete dovevano essere rigidamente ancorate all'oro, per cui quando si inizia la produzione cartacea, e si inizia anche per una serie di ragioni, perché ad esempio questo crea un problema, siccome accanto all'oro si utilizza anche l'argento, e la parità fra oro e argento non era mai stabile, perché ad esempio nel 1840 si scoprono le mine dell'argento del Nevada e l'argento ovviamente più disponibile sul mercato cala di prezzo, si ribalta l'oro. Viceversa, in altre fasi è l'oro a perdere rispetto all'argento. Cosa succede? Succede il fenomeno per cui la moneta cattiva caccia la moneta buona, cioè conviene nella moneta del metallo che si sta apprezzando, conviene scioglierla e con il peso fisico del metallo ottenuto comperare la moneta del metallo che si sta asfaltando per guadagnare in termini di valore nominale. Per evitare questo genere di speculazioni che poi creava una certa instabilità nei mercati, si iniziò a produrre la moneta cartacea, comunque nominale. Per esempio, le monete spesso non erano più di metallo prezioso. Per esempio, iniziano le monete in bronzo o in beghe meno nobili. Quindi la moneta inizia ad avere un valore nominale non più legato al prodotto materiale in cui essa è coniata, ma legato alla riserva aurea della banca che le emette. La banca non può emettere più moneta di quella che può garantire con la riserva aurea a sua disposizione. Allo stesso modo, questa è la banca centrale, la banca dello Stato, allo stesso modo le banche singole non possono prestare denaro eccedente le riserve di oro che hanno. Quindi l'oro ha un ancoraggio stabile per quanto riguarda il mondo monetario e il mondo bancario. Prestiti e moneta sono direttamente legati alla proprietà di oro. Chiaro? Tutto questo questo ha un effetto, ha l'effetto di una straordinaria stabilità. Il valore dell'oro è rimasto sostanzialmente immutato in 2000 anni, con delle fluttuazioni come quelle a cui ho accennato, ma assolutamente relative. L'inflazione, che è un fenomeno al quale noi siamo abituati e che pensiamo esserci sempre stato, è un fenomeno recente, è un fenomeno del Novecento. Precedentemente l'inflazione, cioè l'esplosione dei prezzi sul mercato, è un fenomeno assolutamente meno frequente e infinitamente meno intense, le variazioni. Comunque c'erano dei casi di inflazione, cioè non erano completamente assenti. Sì, molto più rari, molto più brevi, molto più contenuti nei saldi. Cioè, noi oggi non riterremmo inflazione quella, ci sembrerebbe una fluttuazione di mercato di quelle, tutto sommato, no, perché mi è venuta in mente la follia dei tulipani nell'Olanda. Sì, esatto. È un caso raro. La crisi dei tulipani del 600. Sì. Però lì appunto è un'operazione speculativa e comunque attenzione, non si riflette tanto su altre merci, eh? Quindi sono fenomeni circoscritti, limitati. Dopo vi farò vedere una slide che vi convincerà, Sono già convinto. Capire che significa, ecco, vedete come la quantità, l'intenta qualità, anche dice sì, ma sai, in scala c'è sempre stata l'inflazione. Sì, ma cambia la musica se l'inflazione incide per il 5, per il 30 o per il 200%. Cambia completamente. La quantità produce fenomeni qualitativamente diversi. Dunque, in una prima fase abbiamo sostanzialmente una grande stabilità monetaria e dei prezzi di mercato e dei crediti, il che non impedisce le crisi. Io vi ho parlato della crisi, della grande depressione, della prima grande depressione tra 1873 e 1895, ma per altre diverse, lì abbiamo la crisi dell'economia reale, cioè una sovrapproduzione che non trova sfogo sul mercato e quindi impedisce la realizzazione di capitale. Siamo. La musica inizia a cambiare dalla prima guerra mondiale, una data periodizzante, vedete? Nella prima guerra mondiale la Germania si trova in forte difficoltà a sostenere la guerra su due fronti, anche perché contrariamente alla strategia iniziale che prevedeva una rapida affermazione, la famosa zampata attraverso il Belgio che avrebbe dovuto atterrare la Francia, e invece si arresta sulla via della Somme, quindi a Verdun viene fermata la battaglia. Sul fronte orientale, nonostante la battaglia di Annenberg, eccetera, i grandi successi iniziali, certo la Russia è in forte difficoltà, ma fino al 17 non uscirà dalla guerra. La Germania si trova quindi in forte difficoltà a sostenere uno sforzo militare che ormai è soprattutto sforzo economico. Ieri vi ho detto che la locomotiva ha cambiato anche la guerra. Ormai ci sono milioni di soldati al fronte che vanno aumentati e questo costa. Inizia a nascere un problema inedito. La guerra è molto più che nel passato l'argent fa la guerra, è molto più che nel passato un fatto economico. E allora si inizia con una cosa, il primo governo che sgancia la moneta dalla riserva aurea, dichiara la non convertibilità, il governo tedesco. Siamo durante la prima guerra mondiale e questo inizia a produrre sganciamento che verrà generalizzato dopo anche dagli altri paesi. Perché? Per produrre un'accelerazione della produzione subito dopo la guerra. Per accelerare la ricostruzione si considera che la medicina sia un aumento del circolante. Ma come aumentare il circolante se non sganciandolo relativamente dalle riserve auree? Inizia a praticarsi questa situazione per cui il cosiddetto standard aureo, il gold standard, inizia a subire una serie di eccezioni. Ad esempio, ci sono delle monete che possono sostituire l'oro, in particolare la sterlina e il dollaro, in una certa misura anche il franco, però il franco poi precederà abbastanza rapidamente. Tutto questo crea una massa di denaro particolarmente ingente, che sarà la base della bolla speculativa che esploderà nel 29. Ecco, vedete, la grande crisi del 29 e la depressione che ne segue ha una somiglianza con la prima grande depressione, quella del secolo precedente. Però, come vedete, le analogie non sono mai perfette, c'è sempre continuità e discontinuità. Questa volta, più che crisi, c'è anche un aspetto di crisi dell'economia reale. Ci sarà, la depressione sarà prodotta dalla perdita di posti di lavoro, quindi dal crollo del monte salari, che a sua volta ridurrà la domanda sul mercato interno e quindi un circolo vizioso che provocherà ulteriore depressione. Però attenzione, c'è una differenza fondamentale: questa volta l'innesco viene non tanto dall'economia reale quanto dall'economia finanziaria, cioè dall'eccesso di circolante che sta producendo inflazione. Il fenomeno è particolarmente avvertibile nella Germania di Weimar, un po' perché è appunto la Germania che ha iniziato questa pratica, un po' perché la Germania è gravata da debiti di guerra assolutamente, certo proporzionati alle distruzioni che ha causato, ma sproporzionati alla sua capacità di rendere quei danni. Questo porterà al fenomeno dell'iperinflazione, che produrrà fenomeni del tipo il salario che quadruplica di mese in mese, ma i prezzi che decuplicano di settimana in settimana. La distruzione della moneta, la morte della moneta. Ancora, alla mia generazione amava la collezione Franco Bolli, tra i due credo non ci sia manco uno che sappia di che cosa si tratta. Beh, nella collezione di Franco Bolli c'era una cosa, erano molto attenti i Franco Bolli della Repubblica di Weimar, perché non solo avevano dei prezzi assolutamente sproporzionati, 5 milioni per un Franco Bolli, 8 milioni, ma addirittura spesso erano sovrastampigliati, perché non si faceva in tempo a produrre un nuovo francobollo. E allora sul vecchio francobollo si stampigliava il nuovo prezzo e si arriverà al francobollo da 1 miliardo di marchi. E la spesa al mercato le massaie la facevano con la valigia piena di banconote di valore molto prossimo a quello di un pezzo di carta per soffiare assegnato. Ecco, tutto questo sarà la base di quei fenomeni di violenta aggressività sociale, di collasso delle strutture di integrazione che poi permetteranno l'affermazione del nazismo. Guardate, ve l'ho già detto, ancora oggi la parola inflazione è una parola che provoca terrore in Germania, molto più che in altri paesi, perché è radicata nella memoria di una catastrofe nazionale senza precedenti, a sua volta foriera di ulteriori catastrofi, la vittoria del nazismo, poi la sconfitta della guerra, quindi un'intera epoca di tragedia per la Germania. Prego. Obbliga i suoi cittadini a trattare il marco come se valesse sempre lo stesso valore, ma naturalmente si svaluta sul mercato internazionale e quindi compra merci sul mercato internazionale a costi crescenti, ma i cittadini all'interno sono costretti a far finta che la moneta abbia sempre lo stesso valore, quindi questo provoca un graduale e una sorta di tassa in più, se ne rende conto. Cioè, due commercianti di due paesi diversi che non fanno ad accordare. Esatto, è esattamente quello che succederà con la bolla speculativa, dopodiché facciamo tutti finta che la moneta abbia il valore di prima che non ha più. Questo lo reggiamo su una bolla speculativa per cui c'è una massa di circolante enorme che noi facciamo finta che abbia sempre lo stesso valore, la bolla cresce, cresce, cresce, a un certo punto esplode e questa è la crisi del 29. Cioè cosa sta succedendo? Succede questo. E noi sganciamo l'idea del valore dalla idea della proprietà di capitale, di bene reale, e fondiamo l'economia sulla dialettica credito-debito. Praticamente che succede? Lui compra da me questo libro e me lo paga con un pagherò, con una cambiale. Io però per fare il suo libro ho bisogno della carta degli inchiostri, mi rivolgo da lui e lo pago col suo pagherò, gli do la sua cambiale a garanzia. A sua volta lui deve pagare i suoi lavoratori, i suoi dipendenti, le macchine che ha comprato, e paga voi con il pagherò di lui che è arrivato a me, che è passato a lui, naturalmente di più persone, e così via. In questa maniera tutti quanti facciamo finta che ci sia un bene di origine, in realtà quello ha solo e nessun pagherò di soldi che non ha. Ve lo spiego meglio, c'è un film di Totò che vi fa capire tutto. A un certo punto il domestico dice al principe squattrinato, ma principe mi dovrebbe pagare il mensile io, e perché? E ieri mi ha detto domani ti pago, e io domani ti pago. Diceva, se un principe il domani di ieri è oggi, giovanotto, oggi è oggi e domani è domani, ho detto che ti pago domani e ti pago domani, e domani non arriva mai. Il capitalismo finanziario del Novecento scopre una regola, che i debiti di oggi si pagano con i debiti di domani. E andiamo avanti su questa, sulla bolla del debito crescente, cioè il capitale diventa prevalentemente capitale fittizio. È chiaro il concetto? Quindi questo meccanismo, io adesso ve l'ho banalizzato anche un po' scherzando, ma il senso è questo, per rispondere alla sua domanda, il senso è quello di alimentare la circolazione con reciproco credito. La moneta è diventata un pagherò, non c'è più la differenza tra la moneta e la cambiale. Tutto si regge sul fatto che la circolazione della moneta è una circolazione forzosa, cioè io ormai ho una moneta che non vale niente, o vale ben poco, vado da lui che è il saloniere. Magari il salumiere mi dice, si senti però, sai qual è il problema? Che la tua moneta, in questo caso che ne so, lo scudo, non vale più quello che valeva prima. E anche se ti aumento il prezzo non risolviamo il problema, perché tanto fino a quando riesco a ricomprare si è svalutato ulteriormente. Sai che c'è di nuovo, per piacere, pagami in dollari o pagami in renminbi, che è la moneta cinese. Perché quella è una moneta solida, non lo può fare, perché se lo fa, fa un reato. Io mi rivolgo alla polizia, lui è arrestato. La moneta deve essere accettata a circolazione forzosa, perché è titolo di debito pubblico garantito dallo Stato, cioè dai contribuenti. Punto. Questo è il segreto dell'operazione. Quindi tutti dobbiamo credere che quella moneta valga tanto, anche naturalmente tu la circolazione forzosa la puoi fare all'interno, puoi farla fuori. Ecco perché questo mette in moto poi una dinamica di prezzi fra prezzi delle merci del mercato interno e prezzi delle merci prese al mercato internazionale, che ovviamente inizia a produrre quei meccanismi. Dato l'inflazione, perché ovviamente la difesa quale sarà? Aumentare il prezzo per far fronte alla perdita di valore reale. Dall'altro lato il parametro con le merci che crede al mercato internazionale sarà da moltiplicatore di questa tendenza. chiaro il concetto? Vedo delle facce perse nel vuoto. È chiaro o lo devo spiegare? Ma comunque il commercio estero tra stati e stati si faceva ancora in oro, o no? No, questo è il problema. Si comincia a fare in monete, ho detto prima, ci sono monete che vengono ritenute più affidabili di altre, come la sterlina e l'oro, in parte il franco inizialmente. Monete forti, monete garantite da stati importanti, questo è il concetto, per cui io compro i dollari e le sterline e poi pago i dollari e le sterline. Ecco perché, guardate, si mettono in moto quelle dinamiche per cui, insomma, in altri tempi, io posso anche far finta di vendermi, mettiamo che io sia una ditta che produce computer, va bene? Posso anche aumentare limitatamente il prezzo del computer che vendo nella speranza che il mercato si stabilizzi. Però il computer ha dei programmi che io devo comprare sul mercato internazionale, per comprare i quali ho bisogno di più soldi. A quel punto il programma, il software che io sto comprando, non posso più venderlo a un prezzo ridotto. Si riflette l'aumento del costo della merce che io ho comprato sul mercato internazionale e il gioco si svela, quindi tutto inizia a l'inflazione inizia a esplodere. Ma io come stato tedesco come faccio a comprare le sterline? Come faccio a comprare? Le sterline o i dollari? Sul mercato internazionale. Ma con cosa? Esistono? Con oro, sempre. Con quello che hai. E quindi se la tua moneta è svalutata vuol dire che ci vorranno più marchi per comprare la stessa quantità di sterline. Se la tua moneta ha perso ogni credibilità devi proprio dargli l'oro della tua banca. È molto semplice. Quindi più oro mi dai, più la tua moneta si deprezza e così via. Questo è un esempio di, te l'ho spiegato, la legge della complessità di Silver positivo, per cui più svaluti la moneta perde il valore, più sei perdi credibilità sui mercati, più perdi credibilità sui mercati, più sei costretto a vendere oro oppure a comprare moneta a condizioni svantaggiose e questo mette in moto un circolo vizioso. È chiaro questo concetto, ragazzi? Sì. Dimmi, scusi, però cioè adesso se non ricordo male la fonte della crisi del 29. Uno degli atteggiamenti più comuni adottati dagli stati europei è stato quello di attuare una politica deflazionistica. Esatto. Cioè alzare il valore della moneta per tenere il basso prezzo. Ma questo è il basso tasso di sconto. Alzare il tasso di sconto. Ma questo è il costo del denaro. Esatto. Il valore, il costo del denaro. L'interesse che paghi. Ah. Ma ti dico di più, di fare una politica inflazionistica invece. No, giusto, lo fece una cosa molto divertente. Confiscò praticamente l'oro degli americani. Disse, ragazzi, l'oro dimenticatelo. Potete averlo solo a condizione di usarlo per il suo bene d'uso, per il suo valore d'uso. Cioè l'orologio, il lingotto va bene. Il lingotto da vendere come bene d'investimento è reato, non lo potete avere. Non si può più convertire l'oro in dollari. Nel 30, e infatti viene stabilita una parità fissa. Per ogni oncia di oro ci vogliono 35 dollari, punto. Quindi è inutile che mettete oro da parte perché in realtà ormai l'oro vale più di 35 dollari, perché non potete cambiarlo, perché è un reato cambiarlo. Fatevi tante collanine, anelli, per carità, quello sì, ma non è più un bene rifugio, non è più un bene convertibile in denaro. Tutto questo crea un problema. Intendiamoci, la ricetta per un po' di tempo funziona. Tanto nel breve periodo, in realtà questo tipo di politiche sono politiche. Giri come dire in tasca. Di tipo hanno un po' l'effetto sì, visto perché? Di una bella sferzata, di una droga che rilancia il mercato. è un'iniezione di una sostanza di adrenalina. E va bene, d'accordo. Fai riprendere il cuore con una bella iniezione di adrenalina. E in effetti, il periodo fra il 1938 e il 1948, il Barastrano, proprio seguito fin più della guerra, è il periodo di più intenso sviluppo industriale, dopo quella produzione industriale percentualmente l'incremento della produzione industriale è maggiore, dopo il periodo del 1850 di cui ho parlato ieri e dopo il periodo del 1900-1913 che è l'altro grande periodo di sviluppo. Quindi nell'immediato questa iniezione di circolante ha l'effetto di iniezione di adrenalina, cioè ottiene il fatto che si produca lavoro e quindi in qualche modo si rimette in moto la macchina. Il problema qual è? Il problema sono gli effetti nel tempo. Allora, vediamo un po' che cosa succede a proposito di quello che mi era stato osservato, male crisi di inflazione ci sono sempre state. Sì, sì, ci sono state, però hanno un piccolo difetto, non sono la stessa cosa. Guardiamo per esempio una slide che voi guardate alle mie spalle, dai un po', che è l'effetto della deregulation sull'indice Dow Jones, che sapete è quello a cui in qualche modo agganciamo la stabilità dei nostri mercati finanziari. Voi qui riuscite a vederla? Tutti quanti? Guardate come, non si legge una mazza, siamo d'accordo, però questo è il 1900, lì siamo, arriviamo al 2008, grosso modo, guardate come l'indice Dow Jones è abbastanza stabile, ha degli effetti, ragazzi assegnatevi l'idea che il vostro professore è un pessimo rapporto con lui. Guardate come fino al 1935 sostanzialmente l'indice ha un andamento sostanzialmente stabile con variazioni stagionali. C'è un primo picco, come vedete, nel periodo più o meno successivo alle grandi crisi e prima della guerra, poi di nuovo proposto non riesco a farlo funzionare, poi vedete come di nuovo si stabilizza, qui siamo nella crisi del 29, poi c'è la depressione, poi un po' si riprende. Guardate come man mano il calcio, la deregulation, guardate l'effetto che ha sulle perturbazioni, guardate le varie salti quali sono. Ecco, questo è il discorso che facevamo prima della quantità che diventa guadagnata, cioè fluttuazioni naturalmente anche qui, come vedete. Ma il conto è questo saliente, questo gradiente qui, e un conto è quella roba là. Vi rendete conto di come una variazione come questa in un solo anno ha un dislivello maggiore di tutto quello che c'è stato nel periodo precedente? Ecco, questo è un esempio di che cosa significa il meccanismo della deregulation, per cui poi questo mette in moto, ragazzi, tutto si basa su un principio. Ancora una volta le regole della complessità ci aiutano a capire. E il cosiddetto effetto leva, il capitalismo finanziario si basa su questo: prestami $10 che io ne presto a lui 100, e lui sulla base di quei $100 che io gli ho prestato ne presterà 1000 a lei. È l'effetto leva, per cui a ogni successivo passaggio noi produciamo iniziativa economica e questo permette di raddoppiare la scommessa in modo esponenziale. Però guardate che su quei $1000 che io ho prestato, alla fine l'unica garanzia sono i 10 che lui ha prestato a me sono diventati 100 alunni e poi sono diventati 1000 alunni. Tutto questo in effetti ha l'effetto conglomerato di dicevo, per cui per un certo momento funziona, però sul lungo periodo questo mette in moto dei meccanismi assolutamente devastanti. E adesso vediamo come, quando e perché. Allora, il primo problema qual è? Una volta che abbiamo iniziato a biforcare, che cosa succede? C'è la guerra di mezzo. La guerra produce un effetto. Molto, intanto le discussioni sono totali. Occorre a tutti i costi produrre una massa di investimenti molto forte. Nello stesso tempo è successo che molti paesi hanno perso la riserva aurea della propria banca centrale, perché è diventata un bottino di guerra. Per esempio dei nazisti è successo, da parte degli italiani è successo con loro dalla banca jugoslava, per esempio, e però poi non è che si sia ritrovato quel tesoro se non in parte. In parte è andato disperso, non è più chiaro quale sia la situazione, altri. Il tesoro della banca polacca è stato recuperato solo parzialmente, altri sono stati assorbiti, per esempio, era già successo con la guerra civile jugoslava, la Repubblica, prima della sconfitta definitiva con Franco, porta la riserva aurea in Russia. Russia che si è guardata bene da restituire la riserva aurea alla Spagna, prima di muovere l'antifascismo, dopo comunque, visto che ci sta, qui. Ora, questo che significa? Si crea una serie di situazioni in cui ci sono dei paesi ridotti formalmente in totale miseria, che non possono garantire nulla. Bene, gli Stati Uniti da soli si ritrovano detentori di una massa aurea maggiore di tutte quelle possedute da tutte le altre banche centrali del mondo messe insieme. Se questo dovesse riflettere il valore della moneta, il dollaro avrebbe avuto un tale valore rispetto alle altre monete che praticamente avrebbe impedito ogni esportazione, perché gli altri avrebbero dovuto pagare le merci americane a prezzi tali da essere poi vendibili sul mercato interno. E allora si arriva a un compromesso, il compromesso di Bretton Woods 1944. Si perfeziona poi nel 1945 con la nascita del Fondo Monetario Internazionale legato al blocco delle grandi istituzioni di governance mondiale, l'ONU, la Banca Mondiale, eccetera. Bene, si fissa una volta per tutte la stabilità del dollaro di per un'oncia a 35 dollari. E si fonda il dollar standard, cioè si stabilisce che il dollaro as good as gold, è buono come oro. Per cui ad esempio le masse di dollari possedute dalle banche centrali, in parte prestate dallo stesso governo americano con il piano MERP, il piano Marshall, valgono come oro, perché garantite dalla riserva della Fed, della banca, della cosiddetta banca centrale americana, che non è una banca centrale, parleremo anche di questo. Quindi si passa dal gold o golden standard al dollar standard. In effetti questa cosa, vi ho detto, funziona, ottiene quei risultati di cui vi ho detto. E ad esempio, fra il 46 e il 55, l'eccedenza della bilancia dei pagamenti correnti americane, rapporto tra Troidi e Svese, è di 38 miliardi di dollari. Nel 51 il totale della riserva mondiale d'oro è di 34 miliardi di dollari, 24 dei quali detenuti dagli Stati Uniti. Ecco, voi capite, i 2/3 dell'intera riserva aurea mondiale sono questa ricchezza, questo consente agli Stati Uniti una di aiutare gli altri e di avere una eccedenza nella bilancia dei pagamenti pari a quello che in altri tempi era l'eccedenza di tutte i bilanci statali degli altri paesi. Quindi all'inizio tendenzialmente questo meccanismo funziona esattamente come il New Deal ha funzionato negli Stati Uniti. Il piano è il piano Marshall per la ricostruzione dell'Europa, e perché gli Stati Uniti hanno interesse ovviamente a ricostruire l'Europa, anche perché ne rappresenta il mercato, il principale mercato di sbocco, perché altrimenti a chi vengono voi? Quindi anche la ripresa in Europa c'è effettivamente, la cosa funziona. C'è però un primo elemento che è presente: il mondo si divide rapidamente in due. Il blocco sovietico non aderisce al piano Marshall, si chiude, non accetta il dollaro come moneta di mediazione internazionale, anche se in realtà poi lo utilizzerà, cioè gli acquisti di materie prime sul mercato, di tecnologia sul mercato internazionale. Il blocco sovietico li pagherà in dollari, procurandosi dollari. All'interno del suo blocco però gli scambi non avvengono in dollari. Il blocco del mondo sovietico, che include tutta l'Europa orientale, e dopo il 1949 con la rivoluzione cinese la Cina e la Nord Corea e il Nord Vietnam, che è un blocco che supera di gran lunga il miliardo di esseri umani in un mondo che è ancora sotto i 3 miliardi, è un blocco che si sottrae a queste regole. Quindi un mondo diviso in due, che ben presto diventerà diviso in tre perché c'è il terzo mondo, che tendenzialmente accetta il dollaro standard, però ovviamente è totalmente marginale in questo meccanismo, e vende le materie prime a prezzi assolutamente sulla base di quello che viene definito lo scambio ineguale. Quindi nel complesso il dollaro standard funziona, non funziona per il blocco dei paesi occidentali, cioè sostanzialmente per gli Stati Uniti con il Canada, per l'Europa occidentale, per il Giappone e per Australia e Nuova Zelanda. Questo è il blocco dei paesi occidentali che partecipano a questo sviluppo. Nel frattempo però che cosa succede? Che dopo l'iniziale successo del dollaro standard, il dollaro comincia a perdere gradualmente di valore rispetto al loro. L'oro inizia ad avere primi accenni di rivalutazione rispetto al dollaro. Viene mantenuto artificialmente il limite dei 35 dollari ad oncia, anche grazie all'istituzione nel 1961 del London Gold Pool, cioè una associazione di banche centrali che accettano di coordinare vendite e acquisti di oro in modo da mantenerne stabile il prezzo. Quando l'oro inizia ad andare su, queste banche vendono una parte della loro riserva aurea. Quando l'oro invece rientra, recuperano gradualmente in modo da evitare. E questo meccanismo grosso modo funzionerà fino al 61. Perché nel 61? Primo, c'è una serie di ragioni. La prima ragione è che nel 68 si ritira da questo pool la Francia, determinando la dissoluzione del pool. Perché? Nel 58 è tornato in Francia, a potere in Francia il generale De Gaulle, che dopo aver chiuso in qualche modo la luminosa guerra in Algeria, che ha distrutto la moneta francese, in Francia negli anni 50, sia pure in scala più ridotta, si si produce un fenomeno di erosione della moneta paragonabile solo a quello che era accaduto nella Germania di Weimar, molto meno per la metà, ma al punto che se ne uscirà con l'istituzione dei nuovi franchi, quindi una nuova unità monetaria che lascerà bruciare la precedente. Dopo questa fase, stabilizzato di nuovo, passati al sistema della Quinta Repubblica, la Francia, ormai uscita dalla sconfitta militare del 40, che in qualche modo aveva miracolosamente convertito in una vittoria grazie al ruolo personale di De Gaulle e del suo governo a Londra, uscita dal disastro degli anni 50, dall'instabilità politica e della guerra d'Algeria e prima ancora della guerra di Indocina, la Francia riacquista una sua stabilità e cerca di giocare un ruolo di leadership in Europa. In questo quadro la Francia lancia la proposta di tornare al gold standard, proposta estremamente invisa agli Stati Uniti. Inizierà di fatto una guerra commerciale, una guerra sotterranea coperta fra Stati Uniti e Francia. La Francia nel 66 si ritirerà anche dalla NATO, resterà nell'Alleanza Atlantica ma si ritirerà dalla sua organizzazione politico-militare. Manion incoglierà a De Gaulle, che andrà incontro al maggio francese del 68, nel quale gli americani qualche zampino ce l'hanno messo, e che verrà sconfitto poi nel referendum del 69 e si ritirerà. Ma comunque la prima causa della perturbazione nel 68 è dovuta a questa perturbazione, come vedete, tutta politica fra Francia e Stati Uniti. La seconda ragione è la crescita del bilancio federale americano. Perché? Per due ragioni. Primo, per sostenere la guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam rappresenterà un'autentica rovina economica. Se voi pensate, alla fine della guerra si faranno questi calcoli: per uccidere un solo Vietcong, gli Stati Uniti affronteranno la guerra del Vietnam con l'attuale dispendio, l'attuale volume di fuoco che caratterizza il suo esercito. Per cui ci sono ad esempio grandi battute nella foresta attraverso elicotteri che sparano a raffica, spesso in zone in cui non ci sono affatto Vietcong. Il risultato è che alla fine si calcolerà che per ogni Vietcong ucciso sono state sparate 124.000 pallottole. Provate a fare un conto di quello che significa. Mantenere un esercito come quello che ci sarà in Vietcong, che supererà il 500.000 di persone, in condizioni ambientali per gli americani proibitive, una guerra difficilissima, avrà un costo estremamente alto. Contemporaneamente gli Stati Uniti, anche per ragioni di consenso interno, guardate, dagli anni 30 agli anni 80 è il grande cinquantennio democratico, è l'era democratica degli Stati Uniti, interrotta solo dagli 8 anni di governo del generale Eisenhower e dagli 8 anni di governo dei repubblicani di Nixon prima e Ford dopo, fra il 68 e il 76. Ma comunque lasciamo da parte il 68, dal 1932 al 1968 per 36 anni e con una sola finestra di 8 anni i repubblicani e i democratici sono permanentemente al governo e realizzano il grande welfare state americano. Passa per essere una realizzazione del pensiero di Keynes, in realtà Keynes viene studiato e analizzato solo molto più tardi, la nascita del New Deal in qualche modo ha delle convergenze oggettive con Keynesismo, ma non è esattamente. In questo ci sono ad esempio i programmi di integrazione razziale, per esempio, di omogeneizzazione del paese, c'è quello forte di slivello fra sud e nord e fra stati del centro e stati delle due coste. C'è un tentativo iniziale di creare un sistema sanitario nazionale, soprattutto un sistema di istruzione nazionale, è il big governo, il grande governo. Il grande governo costa e costa assai, esattamente come la guerra in Vietnam. Tutto questo viene finanziato dagli americani come? Attraverso il meccanismo degli eurodollari. Eurodollari che hanno due canali di uscita, primo i soldi che vengono dati ai governi e alle banche centrali europee, negli scambi, nei finanziamenti, nei prestiti, eccetera. Secondo, attraverso nel mercato, specie attraverso le basi militari americane presenti in Europa, i cui dipendenti, e guardate che sto parlando di una forza che fra militari, civili, tecnici, eccetera, varia fra gli 1 e i 3 milioni di persone, a seconda dei vari periodi di momento, cioè, quindi sto parlando di una massa ingente di denaro, vengono pagati in dollari e acquistano sul mercato interno in dollari. Quindi si crea questa grande bolla degli eurodollari, però inizia a essere percepito chiaramente che il dollaro non è più as good as gold, non è più buono. Voi pensate solo a un dato. La parità, che ancora nel 71 artificialmente è tenuta a 35 dollari l'oncia, nell'80, quando sarà lasciato fluttuare liberamente, adesso ci arriviamo, arriverà a una parità di un'oncia per 800 dollari contro i 35 precedenti, con un aumento di 23 volte tanto. Ora, è evidente che l'aumento di 23 volte è un aumento che già c'è da molto prima, cioè è iniziato prima, era artificiale quella parità. Chiaro? Le banche europee iniziano ad avere il panico di questa situazione, perché ci si accorge che ad esempio la massa di eurodollari si avvicina ai 100 miliardi dollari alla fine del 71 e ormai le riserve d'oro degli Stati Uniti sono molto al di sotto di questo valore, quindi ormai non c'è più questa parità. Non solo, ma inizia a profilarsi un altro problema che troverà nel 73, il prezzo del petrolio. Nel 68, questo è già avvertito, nel 68 c'è, vi ho detto, la Francia che dissolve praticamente il pool di Nomura. C'è una manovra speculativa della Russia sui mercati dell'oro che per ragioni politiche inizia a fare incetta di oro pagandolo anche un prezzo superiore al suo oro, quindi liberando le riserve di dollari che ha e provocando. Le banche centrali europee colte dalla, per esempio la banca centrale olandese, pochissimo tempo prima dell'agosto 71, ritira oltre un miliardo di dollari, versa oltre un miliardo di dollari in cambio di oro della Federal Reserve. La riserva aurea americana si stava ormai sciogliendo come neve al sole. Il 15 agosto del 1971 il presidente Nixon annuncia in televisione la non convertibilità del dollaro in oro. Da quel momento la banca americana non pagherà più in oro i dollari che gli verranno presentati. E i paesi europei si trovano in possesso di un grazioso bucchetto di fogli verdi che in realtà ormai non hanno più alcuna garanzia. Questo è già il primo colpo e quindi si lascia fluttuare liberamente l'oro, ecco perché salta il tappo e rapidamente si arriverà a quella quotazione che vi ho detto. Ma soprattutto si crea un altro problema. la svalutazione del dollaro altera il rapporto di scambio fra Stati Uniti e Europa, e l'Europa viene la svalutazione del dollaro invade di prodotti americani l'Europa, e l'Europa che già deve soffrire del costo dell'inflazione si trova a soffrire anche di questo scambio svantaggioso che invade i suoi mercati. È il periodo di massima crisi sociale in Europa. A questo si aggiunge nel 73, tra il 73 e il 74, in rapida successione una serie di eventi. Nel 73 c'è la terza guerra del Medio Oriente. Oddio, qualcuno dice la quarta, perché considera quella del 48 come la prima. 48, 56, 67, 73. Questa volta però gli arabi hanno individuato uno strumento di pressione internazionale notevole nel petrolio e decidono l'embargo del petrolio a tutti i paesi che sostengono Israele. Particolarmente colpiti sono l'Inghilterra, Olanda, Stati Uniti. Sì, però gli Stati Uniti hanno risorse petrolifere proprie, quindi in qualche modo fanno cose. Però la domanda di petrolio è dell'Europa, i vignetti sono a secco e questo crea una situazione molto grave. Finita la guerra e compreso quale fosse il potere politico che il petrolio gli dava, i paesi arabi capiscono che con lo schiocco di dita possono far ballare l'Europa e iniziano ad aumentare fortemente il prezzo del barile. Non vi do i dati perché ne parleremo in un'azione specifica sul petrolio. Inizia a lievitare molto velocemente il prezzo del barile di petrolio. Rapidamente si va dai 30 ai 40 dollari per capirci. Subito dopo, sia per effetto di questo, sia per effetto della resistenza della forza lavoro all'interno, si crea una crisi economica che avrà un riflesso molto pesante nel 74. Siamo a una nuova crisi di pressione, però di durata molto breve, tra il 74 e il 73. Tra il 74 e il 76, nel 79 giunge il secondo shock petrolifero, non tanto per una guerra fra Israele e Medio Oriente, anzi a Camp David sono iniziati degli incontri, quanto piuttosto per altre turbolenze. Nel 79 c'è la rivoluzione degli Ayatollah in Iran, uno dei massimi produttori di petrolio, che scalza uno dei regimi tradizionalmente alleati degli Stati Uniti, il regime dello Shah. Questo ha una ripercussione immediata sull'Arabia Saudita, dove si manifesta una ribellione di tipo fondamentalista, tendenzialmente filo iraniana, che provocherà una rivolta che avrà un forte impatto emotivo. Perché simbolico? Perché gli insorti si asserraglieranno intorno ai luoghi sacri, alla Mecca. Questo anche perché voi sapete che inviolabile lo sacro, quindi la rivolta verrà domata grazie agli aiuti americani, la monarchia saudita si salverà, ma accetterà in cambio quell'accordo a cui vi ho accennato di vendere il petrolio esclusivamente in dollari. E quindi ormai il dollaro riguadagna in qualche modo la sua posizione, per una ragione tutta politica. Questo conclude in qualche modo il periodo, diciamo, iniziato con Bretton Woods. Che cosa è successo? Direi un passo di un libro che lo sintetizzo, tanto vi consiglio perché Michel Beau, Storia del capitalismo, degli Oscar Mondadori, è un possibile libro da consultare, insomma, scritto molto bene. Lo scenario della crisi si sintetizza in questi punti. Primo, esaurimento degli schemi di accumulazione degli anni 50 e 60 in tutti i paesi capitalisti, per la saturazione dei mercati e la resistenza del mondo del lavoro, il costo del salario. Per cui quella famosa ripresa drogata di cui vi ho parlato, ormai è esaurito la sua spinta propulsiva, anzi ha messo in moto un meccanismo di aspettative crescenti che si è tradotto in una forte resistenza del posto del lavoro che si deve trovare e in una forte domanda politica di servizi allo Stato. Parleremo dopo un attimo della crisi fiscale dello Stato. Secondo, accresciuta ricerca di sbocchi esteri per finanziare la pressione fiscale sullo Stato. Tutti i paesi capitalistici cercano in qualche modo di riequilibrare la bilancia attraverso la ricerca di sbocchi sui mercati esteri. Appesantimento degli oneri dell'imperialismo statunitense, delle imprese unitarie americane all'estero, che iniziano a far mettere in discussione il dollaro nel sistema monetario. La risposta americana a tutto questo sarà la svalutazione del dollaro nel 71 e nel 73 e l'invasione dei mercati commercializzati. Peraltro il processo di decolonizzazione porterà al tentativo parzialmente riuscito dei paesi produttori di petrolio e di altre materie prime di ottenere un'iniziale migliore ripartizione del valore prodotto. Quindi aumento del petrolio che darà in misura inferiore anche per altri beni, altre commodity come per esempio il rame, e a riprova del fatto che il problema dello scambio ineguale era quello che poi stava finanziando il grande sviluppo italiano. Infine, i tentativi di recuperare gli effetti dell'aumento del greggio attraverso il riciclaggio dei capitali dei paesi produttori. Cioè, che cosa succede? Succede questo. I forti introiti da petrolio hanno creato una bomba di denaro nei paesi arabi che i paesi arabi non sanno esattamente come impiegare, non hanno ancora una finanza particolarmente sviluppata anche con le relazioni internazionali in grado di realizzare profitti per l'eccezionale quantità di denaro. Le vere radici della globalizzazione stanno in questo, perché occorre risistemare sui mercati finanziari internazionali questa massa di denaro che si è creata. Dopo ne parleremo. Ultime due riflessioni. Il welfare. Vi ho detto che il principale meccanismo di stabilità dei sistemi politici nella raccolta dei consensi è rappresentato dal welfare, cioè dal sistema di sicurezza sociale che assicura condizioni di vita abbastanza stabili e confortevoli a fasce maggioritarie della popolazione, non tutti, ma insomma. Questo però ha innescato insieme alle spese militari quella che verrà definita a James O'Connor come la crisi fiscale dello Stato. Lo Stato è costretto a spese crescenti che può finanziare solo in due modi, forse diciamo in tre modi in realtà: attraverso l'emissione di carta moneta, quindi evidentemente l'inflazione, attraverso l'emissione di debito, di titoli di debito, quindi aumentando il capitale fittizio, quindi in qualche modo a sua volta causa l'inflazione, o attraverso l'aumento della pressione fiscale. Ma la pressione fiscale a sua volta sfavorisce lo sviluppo economico, sfavorisce il reinvestimento di profitti e quindi in qualche modo, oltre una certa soglia, diventa negativa. E qui inizieranno a nascere i progetti neoliberisti. Occorre soprattutto badare alla stabilità della moneta. Questo sarà il segnale della scuola di Chicago. Per fare questo occorrerà smantellare lo Stato sociale. Nel 1980 Nel 79 vince le elezioni in Inghilterra Madame Thatcher, che è sostenitrice dei progetti di tipo monetarista. Nel 1980 vince le elezioni Ronald Reagan. Finisce la grande era democratica negli Stati Uniti. Inizia il grande ciclo dei presidenti repubblicani, repubblicani conservatori e neoliberisti, che durerà sostanzialmente fino all'elezione di Obama. Ora, cosa farà Obama? Dopo lo vedremo. Ci sarà un unico intervallo, che è quello di Clinton, che però, guardate, l'alternanza talvolta non significa molto, perché quando hai l'amministrazione formata, l'opinione pubblica, il sistema funziona in un certo modo, esattamente come Eisenhower non significò un ritorno indietro rispetto alle politiche del New Deal, allo stesso modo Clinton non rappresenterà una significativa inversione di tendenza rispetto agli indirizzi monetaristi delle amministrazioni repubblicane precedenti. Quindi in realtà ci sarà un grande trentennio repubblicano neoliberista, che è quello che ha generato la globalizzazione progetto di cui parliamo. Reagan, per finanziare i suoi programmi, valuterà a un certo punto, chiederà a dei suoi tecnici, a una commissione, se fosse opportuno un ritorno al Golden Standard. Ma questo sarà sconsigliato. Per ragioni politiche occorrerà insistere sulla centralità del dollaro. Ma questo implica un crescente progetto di demetallizzazione, di sganciamento della moneta. Siamo alla fase finale della guerra contro l'oro. Sintomatico in questo senso è una frase detta nel 1984 dal presidente Reagan, quando nel contesto generale di riorganizzazione, di ipotesi di un nuovo ordine mondiale, il presidente Reagan dirà: il livello di vita degli americani non è negoziabile. Tradotto significa che è negoziabile quello degli altri, ma per mantenere stabile, quindi non negoziabile, il livello di vita degli americani, soprattutto in presenza di liquidazione del welfare state, cosa si può fare? È fondamentale di affermare la funzione, ancora una volta utilizzare il dollaro come leva, come finanziatore del sistema politico americano. Tutto questo poi culminerà nel sesto atto, che precede l'avvio della grande globalizzazione, che è la caduta dell'URSS e del blocco orientale tra l'89 e il 91, per cui anche quella di II avrà termine. E di lì, dopo parleremo nella prossima lezione, di quello che ha significato il progetto di globalizzazione e il suo avvio, quindi il progetto del nuovo secolo americano, eccetera, eccetera, eccetera. Per ora mi sembra di avermi colfato la testa già di troppi dati, per cui mi fermo qui, come sempre facciamo un po' di discussione. O a proposito, voi il sabato proprio non fate lezione per niente, perché ho visto che c'è una lezione il sabato, cos'è? No, non è vostra, no. Ma se eccezionalmente una volta per recuperare una lezione fosse necessario venire o il sabato o un altro giorno, voi sareste d'accordo, vero? Certo. Siete d'accordo? Siamo volontariamente d'accordo. Io ho convinto che sareste stati entusiasti. Molto bene. Allora, forza. Io ormai ho perso il fiato. Ah, ecco, giusto per farvi capire, dato che una delle 19 domande dell'esame famoso sarà il fatto che io metterò sotto gli occhi una cartina senza una scalpia e vi chiederò di ragionarci su, cominciate a familiarizzarvi con le cartine. Ecco, questa è la cartina che indica il grado di attrazione di capitali nel mondo nel 1980, quando inizia l'era Reagan. Guardate, sì, la situazione c'è negli Stati Uniti. Finlandia, eccetera, eccetera. Questo invece sarà il punto d'arrivo. Guardate, uno come capite in assoluto, in modo incomparabile, la massa di dollari, cioè proprio il circolante. Adesso capite meglio quella cosa che vi ho fatto vedere prima. Guardate proprio l'entità, anche se per esempio guardate le tre bolle più grandi, quella asiatica, quella inglese e quella americana, e non c'è paragone con l'attuale. Questo è il punto d'arrivo. Guardate come si è distribuita molto di più, ma soprattutto come è aumentata la massa proprio di circolo. Bene, noi ci metteremo un po' per spiegare, qualche lezione per spiegare come si è andata là, là. E una delle domande che io vi farò, mostrando le due cartine, dicendo di grosso modo cosa riguardano, sarà: come si è arrivati qui? Qui? Ragionate, ricordate che questo esame non è giocato sulla conoscenza dei dati. Mi interessa sapere la data precisa di una cosa piuttosto che un'altra, un nome. Mi interessa sapere il ragionamento, ve l'ho detto molte volte, ve lo ripeto. Per cui vi ho detto che l'esame avrà la caratteristica di una cartina geografica o di un esame o di un articolo di giornale, e vi chiederà il ragionamento su quello. Quindi allenatevi in questo senso. Poi vi allenerete perché con tutte le volte che ripeterete l'esame, alla fine riuscirete a farlo, no? Va bene? Allora, forza, domande. Dimmi Molinari. Franco Molinari. Allora, no, ma ho perso un po' di pezzi in giro. Sì. Allora, così se va male. Comunque noi abbiamo detto che con 1944, con il compromesso di Bretton Woods, si fissa appunto l'oro. Cos'è questo bugino? Si fissa il valore dell'oro a $35 l'oncia, giusto, nel 44. E gli Stati Uniti, i porti delle loro riserve auree, che corrispondono circa ai 2/3 delle riserve mondiali, possono finanziare la ricostruzione dell'Europa, piano Marshall e tutta una serie di cose. Io non ho capito come si passa da questa stabilità dell'oro, del dollaro, alla crisi, alla svalutazione del dollaro rispetto all'oro, e in che modo questo è legato, uno, con la... con la guerra in Vietnam e due con la scontro commerciale con la Francia. Conclusa, cioè. Perché? No, ah, okay. Ecco, la saturazione. Poi, sapete che io raccolgo un po' tutti. Versailles. Adesso mi vado a chiedere comunque. A causa di questi crediti, no? O questi prestiti che poi sotto non avevano nulla, perché oggi sono tornati in sostanza a ripetere la stessa cosa? Forte chiesto. Sganciamento da riserva aurea a moneta, e quindi poi ovviamente la centralità del dollaro, cioè esportare il dollaro comunque, cioè, ma dove finisce? Non, adesso com'è la storia in questo senso? Cioè, poi Ricordo che è Leozio. rispetto alla guerra, le ulteriori informazioni di oggi non possono che aggravare le preoccupazioni. Siete preoccupati, ragazzi? Siete preoccupati? Sono contento. No, ma dico voi in generale siete preoccupati, sì? E lei perché è contento? Io non vedo l'ora che crolli tutto questo castello. Posso essere d'accordo con voi? Distruttivo. $100 billion di hanno saldo insomma le banche. tu finanzi tutte le tue attività stampando carta moneta senza alcuno sforzo, sarai portato a stamparti sempre di più e a imbarcarti in opere, in progetti sempre più costosi, tanto non ti costano niente. Tu te l'immagini se domani ti apriamo un credito limitato presso tutti i negozi di Armani, presso che ne so, le discoteche, le cose, cioè una rovina, cioè un po' di tempo spendi quando Paperone e Paperone, insomma, cominci. E questo è il motivo che ha eroso il valore della moneta americana, cioè il fatto che a un certo punto la politica di potenza americana, e qui comincia a toccare il nodo dei due mondi, confronto con l'URSS era finanziato da questo meccanismo. Questo confronto a un certo punto si è sostanziato, da un lato nella corsa degli armamenti atomici, che non è esattamente una cosa particolarmente economica, dall'altro in una guerra guerreggiata come quella di prima, e poi devi pagare il consenso interno con crescenti spese del welfare, e finanzi tutto questo come? Con la stampa di carta, è ovvio che la carta fa perdere valore a quello che c'è scritto sopra. Siamo capiti. È lì che in una prima fase questo non viene percepito, poi man mano viene percepito. Allora, non so se ho risposto, magari è così. Sì, più o meno, mi serviva più che altro un collegamento anche con la guerra del Vietnam e con la crisi. Semplicissimo, la guerra del Vietnam costa una quantità di denaro assolutamente senza crescere, costa più, molto di più della seconda guerra mondiale. Ok. E invece lo scontro con la Francia, lo scontro commerciale con la Francia? Lo scontro con la Francia non è che abbia un costo, perché dal punto di vista di quantità, monetaria, è un'operazione politica, per la prima volta in un'intervista del blocco c'è. Questo è il segnale che viene. Per quanto riguarda il discorso del e perché l'hanno detto, dice, ma se già abbiamo fatto questo esperimento, per quale motivo lo rifacciamo? Signori e madonna, secondo me i camorristi che sono stati liberati grazie all'indulto di Mastella, appena usciti hanno cominciato a fare i camorristi? Secondo me perché? No, perché era conveniente farlo. Semplice. Perché per i banchieri, e ai banchieri, partiamo da un dato elementare, ai banchieri piace far soldi, vi parla strano, ma è concetto questo. Che succede? Che se io presto $100, perché nel negozio, in magazzino, io ho $100 in oro, e il guadagno che posso fare su $100. Ma se io non devo più preoccuparmi dell'oro che ho in magazzino, posso prestare lì, il mio guadagno non sarà più di $10, sarà di 100. E se ne posso presentare 10.000, il mio guadagno sarà di 1.000, chiaro? Quindi il meccanismo credito debito è il meccanismo che produce più profitti per le banche. E fino a quando tu non intervieni con una misura politica per la quale crei un nuovo principio di responsabilità del rischio, sarà sempre così. Lo scontro, ne riparleremo, attuale fra Obama e le banche sulla riforma, e peraltro le proposte di Obama sono di un moderato e di un insufficiente che non di nuovo. Cos'è? Che questi vogliono continuare come prima, anche perché è così. Tu presti, guadagni fino a quando ti viene il bisogno, quando poi dovresti andare male e il genitore diventa insolvente, per cui c'è crisi dei mutui, non c'hai, cioè per cui hai dei debiti, per cui non puoi farlo, poi c'è lo Stato che paga, e per fare così perché non abbiamo cambiato le regole, e fino a quando le regole saranno queste, ovviamente quello che ci guadagna continuerà a fare quello che gli conviene di più. Non è il modo di pensare del bandiere, anche perché ormai noi viviamo un'epoca in quella del pensiero corto, il pensiero lungo, ce lo siamo su qualcuno degli effetti del neoliberismo, è proprio l'idea che l'orizzonte più lungo è a 3-4 anni. Voi pensate che noi avremo ragazzi su, voi sapete che io non prendo le firme di frequenza, proprio per non obbligare nessuno, però se si sta in aula non si fa conversazione. Lo scambio di due parole, per carità, non c'è problema, ma la conversazione è piacere fatta a voi. Tornando a noi, noi avremo un problema serissimo nel 2012, di cui nessuno sta parlando, qualche articolo di giornale. Perché abbiamo questo problema nel 2012? Una semplice banale una scadenza, una serie di titoli di obbligazioni di Stato e di banche, che riguardano tra i vari Stati Uniti e l'Inghilterra per la conferenza nazionale, emessi alla leggera fra il 2003 e il 2007, quindi fino alla soglia della crisi che ci sta investendo, e che arriverà alla scadenza. Ma perché? Perché un titolo a 5 anni, a 7 anni, un tempo infinito, nessuno si pone il problema del se fra 5 o 7 anni ci saranno i soldi per pagare. Sono spiegati. E se non correggi queste regole sarà sempre così. Quindi a chi mi chiede come andrà sempre così. Se il problema è che nel frattempo la partita sta ridiventando politica, ve l'ho detto, ne parleremo, c'è uno scontro su quello, non è così semplice, questa volta lo scontro è molto più pesante. C'è il blocco del BRIC che dice no, guarda che noi possiamo mica continuare a finanziare qualsiasi cosa fanno gli Stati Uniti attraverso il mercato del valore. Ed è lì che si innesca il conflitto, che è quello di cui parleremo in questa cosa. L'ultima cosa, guardate, perché il mondo di Cinque ha avuto un effetto. Io vi ho spiegato che il concetto su cui torneremo spesso è il concetto di gas in spugna, perché la presenza di un mondo che funziona con regole diverse inceppa il meccanismo di un sistema, perché produce problemi su piani diversi. Ad esempio, crea un polo di attrazione diverso per i paesi del terzo mondo, altera il mercato delle materie prime, crea problemi di ordine politico, crea tra l'altro un soggetto che c'è ragioni politiche, quindi con una logica diversa dalla tua, che è una logica prevalentemente economica, si diverte a fare operazioni di speculazione sull'oro. Adesso noi non sappiamo che cosa faranno i cinesi, se prevarrà una logica di tipo economico o una logica di tipo politico nella gestione dei titoli di debito pubblico che loro hanno. Ne parleremo. Quindi, come vedi, il problema non è detto che si deve, non devi pensare sempre che la crisi economica possa essere innescata da comportamenti economici o da soggetti che hanno una razionalità di tipo economico. Vi ho detto prima, i problemi del mondo, il mondo non è fatto come un'arancia scritta separata l'una dall'altra, il problema del mondo deve essere comunicato, questa è la globalizzazione. Per cui tu puoi tranquillamente innescare una crisi o incertare un sistema economico innescando problemi di ordine sociale, politico, qualche volta culturale. Pensa adesso che musica sarà con il mondo dell'informatica. Voi non avete idea di che significa lo scontro fra Google e la Cina, l'avete sentito? Che ci avete capito? E Google si batte per la libertà di pensiero contro i cinesi che vogliono applicare la censura, vero? No. E allora il problema qual è? semplicemente la Cina limitava l'accesso a Google e giustamente a Google questo non va bene. No, almeno il problema è anche di spionaggio industriale. Ti stai avvicinando, ma non solo quello. Ma è un problema di sovranità anche, nel senso che... È un problema di sovranità. Perché ormai la sovranità non ha più una dimensione spaziale. La sovranità nasce come concetto territoriale, il territorio. Bene, al massimo allargato ad altri territoriali. Dopo si comincia a dire, quando inizia la guerra aerea, è anche lo spazio aereo sovrastante. Dopo la sovranità comincerà a essere, per esempio, il sistema satellitare, un attacco a un satellite viene ritenuto immediatamente dal paese che riceve con un'azione di guerra. Ma ormai sovranità è anche l'infosfera, che è una sfera immateriale. E allora tu non puoi mettere le mani in casa mia e io non avere l'accesso, le chiavi d'accesso a te. Ma secondo voi le liste degli evasori fiscali che sono stati pizzicati, avete letto che gli Stati Uniti, ogni tanto viene fuori pizzicata una lista di evasori che erano portati capitali in Svizzera, eccetera, eccetera, no? Avete letto? Secondo voi cosa è successo? Te lo dico io. Perché siccome c'è una struttura di cui parlo europea, che è l'organizzazione nazionale, che aveva sede a Lyon e lì c'era uno dei serbi, si è presentato quel giorno per FBI, ha preso la memoria del sì grazie, scusate, ci serve, l'ha portata fuori e ha beccato tutti quelli che avevano scontato per la natura. È chiaro il concetto di quello che sta succedendo? Quindi violare la memoria di un determinato archivio, per esempio statale, è un'azione diretta contro la sovranità. Capisci perché il controllo che serve una rete come Google negli Stati Uniti è ritenuto un modo di interesse militare. Sì. E perché la Cina non dovrebbe votare? Non ho sentito la domanda. Non ho sentito la domanda, se gli americani ritengono Google un modo di interesse militare, perché non dovrebbero